Restate che d'inverno. Poi vabbè, là, a coricare sempre a mezzanotte, 11 a mezza, mezzanotte. E la sveglia alle 4 e mezzo, 5 meno un quarto, dipende. Io ho abitudini di lavorare, ma io la notte mi guardo il televisore, mi trovo nel divano, mi dice da ridere di manzana, e dopo mi danno da lì, ma chi va giù vai. Vabbè, già è successo anche a me già. No, vabbè, io qua dove c'ho le radio, no. C'ho il divano, c'ho la televisione, tu fa pellet, guarda, la femmina te lo godumi della gadria, va te lo go. E a volte la sesta anche sta accumulata, capito? Come ti rilasci un po' di dopo. Che è accumulata tutta la settimana. Già, non è il problema che dormo poco perché non riesco a dormire molto, capito? E mi alzo molto presto. Quindi dormi sempre quelle 4 ore, 5 ore esagerando, capito? Eppure vabbè, già lo sai, il lavoro lo faccio io, quindi tutta la vita, burendi. Oltretutto il viaggio c'è, tu sta messo nel lavoro, è più o meno quando lo facevo io lo stesso facevo 80 km al giorno, e tu mi dirai sì, 20 km, 20 a andare, 20 a tornare, poi 20 a scendere, 20 a risalire, sono 80 km già. E noi invece ne facciamo 80 solo per andare e 80 vabbè per tornare, però li facciamo con il camioncino e tutte cose, va. Adesso forse dalla prossima settimana iniziamo anche di nuovo i turni di notte, allora è freddo la notte, capito, no? E quindi facciamo dalle 10 fino alle 5 e mezza, senza pausa, caffè, pranzo, roba del genere, la cena diciamo, tutta una tirata. E siamo vicino a Olbia, quindi c'è un'ora di strada andare, un'ora di strada tornare. E lo so, l'ho fatta da poco, sono andata a Santiago da poco. L'ho fatta esattamente una settimana fa. Sono andata a Santiago e ho fatto quella strada lì. Ho visto che un bel pezzo l'hanno aperto. Sì, sì, sì, hanno aperto la parte di Monti per Chita, là. Sì, sì, ho visto. E quella strada lì adesso quando finisce deve essere la cuccagna. Ci arrivi molto prima, Olbia. Poi già quando è finita quella strada fai più fretta andare a Olbia che andare a Ghero, per farti un esempio, là. Anche se sono 100 km di strada, però tutto rettilineo, tutto quattro corsie, quando è finita c'è bella. Sì. Vabbè, io non ci arrivo proprio a Olbia, giro per Nuoro Cagliari e faccio quella strada lì dopo, faccio altri 50 km, cioè 150 km di Olbia. Niente. Andare a fare sono 30. Cosa vuoi fare un pezzo di carri venduto? Vabbè. Vabbè, purtroppo, se trovo qua già viene qua adesso, ma se quando trova può venire senza lavoro. No, il lavoro ci vuole già, e poi è abituata a lavorare, è meglio, è più autonomo e tutto. Beh, infatti. Andiamo, noi ci vediamo ogni giorno, ci vediamo al telefonino. Adesso c'è Skype, ci sono videochiamate, sì, ormai non ce n'è problema. Ma anche su WhatsApp c'è la telecamera, c'è la videochiamata su WhatsApp, tranquillo, funziona bene, resta collegata tranquillamente, quindi già non c'è problema. Dai, John, sei già sceso, dove vuoi andare? Eh? Dimmi cosa c'hai, sei già sceso. Già a volte può fare bisogni più di una volta e la gente è di cliente, magari prima di prepararsi la cena prova a riportarlo, non sa mai. Kappa, vabbè dai Gianni, allora organizzati, preparati a mangiare, portaci il cane 10 minuti, non si sa mai, al limite, se in caso, ma non credo, ci sentiamo dopo, ok? Ehi, andiamo a vedere, ci sentiamo, buona cena, ci sentiamo, ciao. Ciao, già, buona carica, ciao. Vabbè, e adesso dai, siamo qua, c'è importazione, che c'è la partita tra un po'. Ehi, Kappa, non c'è problema. Tra poco ti mando un messaggio, ti mando. Cosa vuoi, Antonio? Lo so, sono qua io. Non mi sto commutato. fianco, usando il 140, ci sono qua comunque. K. Cazzo, vado a mangiare poi, entro qua, e già sto qua, sennò quando finisce la partita, a dopo, ciao. K, non c'è problema, spegni il cellulare. Ci sentiamo dopo. Bobolì. Attenzione 10, c'è qualcuno K? Bobolì, io ci sono io. E gare? Come chi è io? Ah, scusa. Andiamo bene, andiamo. Chi è che mi riconosci tu che è? Ehi, oggi a Rumonte, sì. A Rumonte, allora. Ehi, a Giuiccio, già. Ehi, ehi, metto contro un telefono un amico. Cappa. Togli una curiosità. Ma chi su Baracchino che va a casa in Chivaro Monte? Appena spostato, Questo qua? Di frequenza. Cosa ne so, boh? Cosa l'hai comparato? Chi spostato sono? No, vabbè, come curiosità, perché quando parli troppo forte strappa. Kappa. Vabbè, non li faccio nulla, magari faccio un pelino al microfono, va bene. Qua, l'ho messo a 3. Perfetto. Prova a fare un passaggio. Qua un po', 1, 2, 3, 30, 40, 50. Oh, ma è spostato, cosa ne so, qua si muta mano l'ho comparato. Kappa. No, già va bene adesso. Uiuia. Appena durato cielo. Kappa, a Rubin se pizzendi. Cosa hai detto? A Rubin tu se pizzendi 1-0 contro l'Inter. Mamma mia. Vabbè, ancora fine la giuga, Ma si perde su un contento. C'è qualcuno che ti azzannendi. C'è qualcuno? C'è qualcuno che ti azzanna. Stavo sopravvolando. Se ti sente, mamma mia. Che se la futti. Allora, parlo di macchia, reggi i soldi, che sono qua io, mi riferisci l'NB quando succede così, capito? Perché è troppo amplificata. Ma a me stai dicendo? Ehi, ti ho mandato un messaggio, mi riferisci l'NB. Prova a vedere. Il microfono è troppo alto, mi riferisci l'NB. L'ho fatto, guarda a vedere com'è. Come lo si risveglia? A me non vuol dire io niente, in ricezione quello funziona, non in trasmissione. Sì. Quello è un filtro freddo, quando la modulazione è troppo amplificata, tendono a trappare. Allora tu ti inserisci quello. Sì, prova Lu. Guarda un po', uno detto, ma non pare che mi sia spostato, l'apparecchio è abbastanza nuovo. L'ho aperto io per i canali e basta. Ma così fatto l'ho aumentato niente. Bisogna arrivare allo Smith, ma non dopo rimane così. No, va benissimo, lascia stare. Era colpa mia, era lui. Io non ti preoccupare. Cappa, che non lo sappia. Quando ti capita tu che vedi che scappa, vuol dire la modulazione è troppo alta. Lui è presente perché c'è il filtro stretto, allora lo disinserisci. Capito? Quando non lo lasci inserito, ricordati. Ora ho capito. Oi, il goccoi. Andiamo arrivare a Nidato, blocco. Ma ho visto, vero? No? Basta che c'è il boulevard. Quattro arbitri sono, quattro me. Ah, no, come? Vai, porca, vai. Poi ci avete vinto solo voi, quei rigori, furendi, furendi di battiti, tutti i battiti li avete tutti furati. Questa qua veniva una ghinare giugata, tutti furati si battiti. Vabbè, là, sto lavorando. Vai, no, non ci parlare con me, lui, di queste cose, vai, guarda la partita in fa che cra e la vi dai e la vi dai inutile che tu dici non ci parlare con me se voi non ci parlo non c'è problema, è la verità di quello che dico e la devi ammettere, punto. Ho detto che ci sono quattro arbitri, non capisci un cazzo di calcio, sei un interista con le briglie come i cavalli, punto, non vi fa vedere un mego. Un cazzo hanno regalato, sei andato a vedere il VAR, cosa cazzo l'hanno messo a fare il VAR, ma le cose si fa vedere. Ti interisti, sempre ha ragione, tu per vinti solo a chi sei interista. Lu, non parlare di calcio con me, che poi alla fine vinciamo. Commenta il silenzio e lasciami santa pace. Vabbè, cavolo. Cioè, quello che è giusto però. Certo, con la tecnologia di me, allora curate un rigore, con la tecnologia di me. Ma sicuramente è interista con i brilli, come anche un babacco. di altro, se ne cazzate di gente a Brescia. Cazzate di tutto, gli ho detto, guarda rispetto, lo so più grave di te, un po' di po' più. Ma dai, cazzate di tipo. Ti rispondo, ti ho detto tu. Solo l'altro giorno questo cazzo di te mi fai girare i coglioni. Sto parlando bene, tu sei che stai parlando male. Anche tu offendi, Tu ti offendi, io non mi offendo, vedi un po'. Tutto è solo che mi stai girando le balle, non ti sto dicendo niente, quindi solo l'altro giorno che stai offendendo. Tutti su Inter, tutti che io vengo di merda, io ventini di merda, rilassati, rilassati. Dai, basta. Ah, vedo già Buffonetti, là. Poi sei tu che sei agitato, non so pure io, me. Perché sei tu che l'ho offeso l'altra volta, non ti ha agito nulla, me. Sei tu che ti sei offeso. E ha agito la squadra, cosa metti tu? Poi se tu sei un ventino, a me non me ne ha fatto un cazzo, capito? Faccio prima, non ci parli, boh, punto, finito lì, il discorso. Io sono qua, posso commentare anche normalmente, se tu mi sei sempre offendendo, stai offendendo la mia squadra e stai dicendo io ventini di merda, quindi ti agito la carica, rilassati. Allora su questo che Claudio, Claudio io mettevo di merda, su questo io mettevo di a chi volevo di interessi di merda, c'è di riso, e però a me mica mi offendo io, non credo che mi offendo, perciò... Sei tu l'unico che si offende, mi. Io tutti gli amici miei, i ventini, io sono chi si offende, sei l'unico che si offende. Vuol dire che a me mi dà fastidio che parli in quella maniera della mia squadra, appunto. Posso offendermi? Sono permaloso e quindi... Ma sei mai di permaloso? Cosa me la fottiamo? Guarda, giurito, evita di parlare così con me, con la Juventus. Poi con gli altri parli con linguaggio che vuoi, a me non mi interessa. Non ti sto mica dicendo niente. Ti sto chiedendo per cortesia di non parlare così con la Juventus con me. Tu fai l'intervista e io faccio Juventus, punto. Vabbè, io quando dico una cosa, ma l'acchio, tu non mi rispondi. Non mi lascio chat, bene qua. Tutto qua, finito qua. Chiuso il discorso. Basta, dai, che non c'è bisogno per una squadra a farrarsi. Io per la squadra, ma stai scherzando. Non ho giubriato con questa bella squadra, ma nulla, non ho più tempo di ubriaco con nessuno. Ho detto che non c'è ubriaco, ti ho chiesto la cortesia di parlare bene della Juventus con me personalmente. Ma con gli altri fai quello che ti piace. Vuoi commentare, commenta, non ce n'è problema. Non usare i termini che usi, ok? Non so quanto venerdì. Sì, sì, è a posto. Tutto a posto, è molto meglio però. Io no, cioè, non ci trovo nessuna differenza in cosa. Senza di quello è molto meglio però. Sì, con le modulazioni tipo quella lì, che cosa non c'è, sì. Con la mia non penso. Prova a inserirlo quando sto parlando io. Guarda colore se... Se gli torce lo stesso, se va bene. No, va bene, va bene, va bene. No, tranquillo. Perché c'ha più bassi, capito? Invece qua c'è un medio acuti. Vabbè, sai che cosa in più, guarda, piano piano, va. C'è una freddina in fare, 9,40, ginocca. Sì, sono 140, c'ho 20 watt di battante, lo so. Gabba. Non è che va bene, va la stragrande, tranquillo. Vabbè, sicuramente c'hai una macchina, non c'hai un giocatore. Gabba gabba. Avanti, Bobo. Tu sì, Ale. Ma io quando vado a ricaricare, io sono qui. L'altro gol l'ha fatto, gol? Sì, il gol, una cagata. Un passaggio sbagliato. Così non c'è squadra che tenga. Vabbè dai, piano piano. Capo, ma ho sentito che fa qualcuno, mi sembrava Pomponio. No, non ho sentito niente, ma Antonello qua va con lo scala, Antonello. Non ho sentito niente. Boh, non lo so, chi è che vuole entrare? Se non vi dire a casa tua. No, no. Ehi, la gente ci vedi a casa, boh, ancora, prendere il brovera. Che cazzo è quello che hai usato tu? Switching, ti mando la fotografia. Ah, no, ho capito qua. Vabbè. Quando schiacci la portata la luce si abbassa, rimane pulita. Pulita. Spè. Oh, io non vado di nuda. Allora, se vuoi mettere già giusto, che va bene. Cavolo. Ma ho bisogno di raggiungere una bestia, sono veramente contento. Sì, è uguale al mio, io ne ho comprato due, una vecchia, da tempo, Gigi Vulcano me l'ha fatto a 24 voci, te l'ho detto, per l'amplificatore, per la remittere, perché quello che avevo era piccolo, capito? E quindi me l'ha fatto a 24 voci, poi ne ho un altro da 40, di quelli lì, di quelli con la pancia là sopra, e quello da 25 euro. Capolo qua, questo che ho preso, l'ultimo che ho preso, non è chi fa un trimmer da girare, questo c'ha una vittina piccolina sopra un coso sempre, questo che ho preso è migliore dell'altro, Sì, anche il mio, regolabile, c'ha un produttore, tutto, ma non già sono degli alimentatori, perché sono brutti a vedere, ma io non ne ho di quelli qua, sono messi dentro una un case in ferro, piccolino, capito? Ma guarda, l'altro fa più casino, l'altro. Quello lì, invece questo qui fa meno casino, ma pompa che la mala sorte. Allora, quando è che ero da... c'era Franco California. Una settimana scorsa, 2 settimane fa. Ero a Fuggiare, quando c'era anche Franco. Stava comprando roba. E ho detto a Franco, in 50 posto un alimentatore da... 40 ampere della ZG, 325 euro, mila franco. Ma cosa ne fai? Cosa ne fai? Dici, oh, vi lascia perdere. Questi vanno una cannonata, vanno benissimo, e non si abbascia nulla ai nocchi. Ma 325 euro, perché c'ho il Diamond io da 50 ampere, aumentatore fatto di marca Doc, switching, ma... La polizia cagata, capo è costa 180, mi sembra, 170 euro. E quell'alimentatore ci si fa dei bagaccare. Io c'ho il Proxel da 60 euro, 150 euro l'avevo pagato. E quella dai, ma se mi ricordo 180, 170. Sì, ma quello che ti ha proposto è proprio di Ghisi Bizzanti, che ha punito un mobile, si c'era un mobile puro, la canta Bizzanti. E poi non è che il documento ce lo buone, uno di questi apparecchi buoni, lo bossa. Non sono come questi vanno, cavolo. Non so pesanti, oramai tu vengo qui. La linea del 140, c'è il PS50 che mi alimenta il 140, il 430 alimentato con switching, capito? Sì, convengono questi, non costano molto e spingono la mala sorte, vanno un bel bene, vanno, non c'è niente da dirle, non occupano più pigliani di chi sia alimentatore, una volta secondo me consumano anche parecchia energia, perché è sempre un alimentatore che accumula, questi invece no, non è così, questi fanno quello che devono andare e consumano di meno. Il trasformatore c'è un consumo elevato sicuramente, più elevato. Vabbè. Capa, chi su che va giù mi... GBC con chi 87, rubato appena, lo fa scorreggiare. Oddio, non ce l'ha fatto. È al limite. Ah, oggi è quello lì. Se hai quello da 50, come quello che ho io, lo porta a bere con la radio e ti dà grande soddisfazione. Fate la giù i buoni addetti, che se lo porti di più si bossa appena. Cioè un pochettino nel recente. Per mantenere la 10 watt bisogna tenerlo. Sei un buon inchizzo, manco Roberto Rigocca. Però devo liberarlo perché attaccato nella stessa monsantiera, non ho compreso una cosa, si chiuda, questo apparecchio, si attacca altri apparecchi, non ho capito perché. Devi lasciarlo da solo. Lì devi vedere come la situazione, non so. Io te l'ho detto, l'ho usato per un bel periodo di tempo, con la 56, quella qui, funzionano bene. Poi ho deciso di fare 24. E Gigi me ne ha fatto 24, così sono tutti e due, uno sopra l'altro, e sono 24. 24 e 12, cioè due uscite, una 24 e una 12, li ho segnate, con rosso e nero, bananine. Mi sembra che c'è una quarantina d'ampere a 12 volts. Va bene, va bene. Non è buccia di giogano. No, che vanno bene. Ehi, alla grande. Cappa, ve la giunta a Cinciulliti, a Rigalli, al Sassari. Te l'avevo detto. Dice che già li portavano. Stanno andando a Rumba, ho visto. No, ma io non l'ho comprato qui al Sassari. Li ho ordinati... Me l'avevo ordinati un amico. Da fuori. Erano 20 euro l'uno, più 5 euro di spedizione, capito? 25 euro. Buono, è buono sì. 75 euro tutti e due devo pagare. 20 euro l'uno, più 5 euro di spedizione. Cavolo, è molto buono, eh. No, funzionano bene, ti ripeto, sono brutti. Però già funzionano bene. Ma brutti tra virgolette là, perché alla fine se hai posto, se li buoni sotto la scrivania non vedi nulla. No, io qua gli alimentatori ce li ho all'angolo della finestra, c'è una base, fa apposta per gli alimentatori. C'è il quadretto lì attaccato al muro, capito, dove ci sono tutti gli attacchi delle radio 220 e ci sono anche gli alimentatori attaccati. Posso fare una cosa fatta bene, se no no, io ce l'ho nel mobile, ce l'ho distante da questa radio, lo tengo distante, non mi pongo mai vicino alle radio dell'alimentatore, no, è proprio una cosa che non mi piace, è che non ho posto qua, se no c'è già primici proprio guardi, a me l'alimentatore in mezzo non mi piace, mi piace più altra roba, cioè la radio mi piace, ma l'alimentatore proprio in mezzo a me non gli adoro tanto. No, ma per avere problemi gli alimentatori vanno sempre per terra e qualche base lontana, non si mettono mai a fianco della radio. Io non li ho mai messi. Non ho mai avuto problemi, capito? Anche perché poi si sentono il vento e si sente un sacco di casino. Va bene. Scappa. No, la verità non gli adoro. No. Anzi, ce l'ho anche fin troppo in mezzo alle scatole. Se avrei avuto altro posto, te l'avrei accutti fuori da qua. C'è posto, però ti ripeto, gli alimentatori sono stati sempre all'angolo, c'è una base, ma che se ti abbassa dove tengo cuffie, tutti i cavetti, tutte le cose che servono, spezzoni, contro spezzoni. E lì sopra ci sono i due alimentatori, nell'altro c'è qua nella base che è quello di linea, e poi c'è la cassettiera che sono cavi, microfoni, tutte le cose, non so, è abbastanza ordinato, dai. La voglia. E si conferma. Scappa, c'è qualcuno che vuole entrare? Uiuia. Ah, la verità, tranne quel piccolo problema con quel microfono là. Fischi non ne ho mai avuto io. Chi ci però fa di alternata, era la capsula, me l'ha sistemata e va bene. Scappa, la voglia. Scappa, la voglia di buttare la mano. Vediamo un po' se segnano nuovamente. Per me vinca sempre il migliore. Non ho problemi altro. Mi hanno fatto certe cose, quindi basta così. Non mi interessa. Come ci importa. Io sono sportivo, non sono fanatico. Scappa. Dai, bianco un attimo, là, ci sentiamo dopo che siamo senza Eva e non che mi devo andare una sciacquata. come meglio possibile. Mamma mia. No, non abbiamo problemi, ci me la faccio una 50.000 qui. Lo so però, andava ogni notte sempre un macello. A faraggio se mi fu una burita e poi già rientro, va. Sì, io sono qua dentro, va tranquillo. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao. Yahoo! Almeno! Ma metti il gioco, guarda Giulio c'ha palloncino! Cazzo, ma stavo riparando tutto con la televisione! L'ho sistemata! Quella di mia madre che si è rotta! E tu che cazzo ti vivi in Cieta? Se tu butti, l'ho sistemata, cioè guarda rimane lì da parte, come secondo televisore! Che mamma è rimasta senza, qua ce l'ha comprato nuovo! Nel caso ce l'abbiamo di scorta! Contro la televisione. Sì, perfetto. Perfetto. Ottimo lavoro fatto. Sì, ci ho messo tutta la mattina. E allora, quando si guata te lo dico. Cioè, se mi docco, se si deve già guatare te lo dico. Che altro, non è sempre che si vuole riparare. Dipende dal problema. Molte volte vai alla scheda, molte volte, cioè, poi sono... Dipende, dai. Ci sono tanti tipi di problemi, per esempio ho questo 55 pollici che è un nuovo, adesso infatti lo chiudo, lo porto giù in garage, la marina, aspetto un po', se riesco a rivalgarmi la scheda, quello è un bijou, e praticamente accendo la scheda rossa ma non parte. E qualche problema all'alimentazione? No, io ho chiesto e mi hanno detto che non dipende da... un blocco che ha, bisogna attaccarlo al computer, Cappa. Sicuramente allora è così, ma non è smart tv sa cosa? Come scusi? Sì, smart, per forza, 4K. Ah, ecco, se non li fanno aggiornamenti vanno un po' male. Un televisore che ha pagato 650 euro. Non conviene però. E poi ho sistemato il telefono di mio suocero, ho cambiato la batteria, adesso ho quello di un amico che praticamente il collettore è buono, quello gliel'ho aperto, solo che devi schiacciare verso la parte bassa, no? Non c'è il collettore diverso sul display. Se schiacci lì carica, se molli l'ho aperto proprio, non sa dove è il problema. Ma anche il polo lo ripari tu? E il polo chi sicura me la pratica? Ripare la cosa. Se capita che già lo faccio riparare, cambiare batterie, cose, già hai fatto un tecantigli cose. Sì, batterie e display, sì. Andare. Comunque ne stanno cercando, qualche tecnico lo cercano, Lo so, tanto la link via padre, lavori, noi non lavori. Che buona miseria, capito? Sono una miseria. Mi cartellino giallo, oppia. Vabbè, ciò fa, aspetta un attimo, per sciacquarmi le mani, le palle mi sciacquo. Cazzo voleva, aspetta. Appena di Coca-Cola. Cosa ci vendi Coca-Cola? Cosa? Cosa ci vendi Coca-Cola? No, ha detto da asciugare i mani. Ha detto un po' di Coca-Cola a asciugare i mani. A chi non voleva. Così ti si incollane. No, la dico. E io. Ah. E Luca vera. Si è cucato ancora. Dai. Non c'è niente io noto. Purtroppo non con me non vado di calcio, poi lo sa che io non ho problemi. Ma con la partita sono così, ma ognuno c'è il suo carattere, no? Lo so. Troppo così. Nessuno gli ha detto che non voleva parlare. Se non lo fa vedere, sono fatto anche il bianco. L'importante non vado di calcio. tempo, non tempo. Evita di vedere ricere. Quanto a me bucciare una trama. Allora vediamo cosa annesci. Eppure abbiamo voluto provare in occhi, a vedere com'è in te. Cosa? Chiccio. Chiccio cosa? Questa radio? No! Chiccio, chiccio si trattende. Questo lo sto lavorando. Che certo qua non posso usare io tu? Lo microfono. Ah, microfono. Io non mi 60 non li ho mai fatti. Ci vuoi che mi ho tenuto anche l'altro? Ho avuto 140 ma il 2060 non lo va. Me li tengo a te perché i capi poi possono servire, capito? Yeah. Oh, stavo guardando così su internet. Ma chi so se ne bocca mai fa da così? È appoggiato, eh! Sì, lo puoi usare come microfono normale. Lo togli dal piantone e lo sganci il cavetto che va dal piantone al microfono e gli attacchi lo spiralato diretto, c'è la portante nel microfono, capito? E se fai gabbo? Niente, un microfono di sito che parla quasi 200 euro. Chiarare adesso nuovo, perché lo stanno ancora facendo. Nuovo, mi pare così intorno alle 140-160. Non è buccia di gioca, no? Lo so, per quello che me lo tengo io. Tanto la buia andare a comprarlo, devo vedere magari 100 euro, tutti croppiati, tutti graffiati, i miei sono nuovi. Ne avevo tre, uno l'avevo dato a Massimiliano quando avevo comprato il primo 140, se l'ha sempre tenuto, capito? Sì. E notavo qualcosa di strano, Solo che non capivo. Cioè, che era come c'era fatto. Sì, c'è il filo che esce dal piantone, dove c'è il circuito di purificazione, e va al microfono. Poi nel piantone c'è il cavetto spiralato che va alla radio, capito? Se tu sganci il cavetto spiralato, però spiralato, dal piantone, dalla cassa del microfono, dall'appoggio del microfono, lo attacchi al microfono, c'è il BTT e lo usi come microfono normale. Ora ho capito, ecco dove la stranezza. Stanno cominciando a nervosire, sia una che l'altra, no. Mi avvallo sul quadrato. Sul quadrato quadrato. Sono squadra che stanno lottando un po' per tutto, è chiaro che iniziano a girarci la palla. Piano va già, sempre sulla radio stanno dando. Su Rai 1 la danno, la Coppa Italia, la Supercoppa, la Champions ne danno una ogni partita su canale 5, gli altri sono tutte su Sky. Mi scappi, ho preso un po' di goi per me. Cioè, ha perso un sacco, in questo ultimo periodo, perché insomma non è che riuscire a salire il giro. No, la Coppa le danno come la Champions. Coppa Italia e Supercoppa, la Supercoppa è già finita, ha vinto la Juve, e poi torna. La Supercoppa è la semifinale di Coppa Italia, che vince poi il finale. Però le danno tutte sulla Rai, capito? Sì. È un Cagliari cosa ha fatto? Vabbè, ultimo. È il penultimo, ma non meritava di quello. Non mi ricordo di poi, stava vincendo contro il Sassuolo, al 95esimo ha pareggiato il Sassuolo. Mamma mia. Ha detto la palla è tonda. Non c'è niente da fare. Adesso hanno preso a Rugani dalla Juventus come difensore del Cagliari, in prestito. Dovrebbe cambiare un po' qualcosa, Rugani è un bravo difensore, anche nazionale, perché stanno prendendo un sacco di gol così, capito? Scappa, aspetta un attimino, grazie. Ecco, adesso ci rendi già. Aspetta un attimo. Guai. No, ma aggiungo una cosa, Sara. Mi sono affacciato. Mi sono affacciato dal suo palco. E mi ricordo già l'ha visto come in te in occhi. Ma Massimiliano. No. Vabbè. Si è fatto in quella maniera. scappa, ma non mi posso lamentare, sto governo che non abbiamo migliore, e quindi per noi due è già bassa. Ma sai perché va bene? Perché sei per i fatti tuoi, ma non però per la scatola nessuno. E appunto Bavizio, se muove Sara, i nomi, stiamo bene. Non faccio rottura di scatole di nessuno. Allora, quando sei indipendente, in radio non è così. Non è sempre Nobi. No, comunque, indipendente non ci può pagarla, un po' io sono più la casa di mia madre, ma tranquillamente. Io avevo 23 anni, sono andato a vivere con i miei soci, avevo abitato alla mia motograppa, a 25 anni mi sono sposato. Ma bagno a buco, ma Sant'Antonio. Si niente dire, no? Vabbè, vuol dire che gli piace stare con voi ancora. E cosa vi va? Lui, il progetto ancora non è finito. Volevo vendere questa, quando vieni già lo vedi, c'è il cartello sempre giù, sto vendendo, però no, se non vendo questa non posso ultimare quello che sto facendo, capito? Sto facendo un bifamiliare, tutto per avere a mio figlio vicino. Uscini a lui, lei lì che stava segnando la salvata sulla linea difensore. Ah, ho capito, vuoi prenderne una e dividerla in due, così? Sì, è già dove c'è lei, però la parte mia non è ancora finita, capito? E non dirai? Campagna. Ah, ho capito cosa vuoi fare. Allora, vuoi che ricani il mio genere, ho capito, che c'è la casa grande. Sì, volete fare una, ne volete fare una tutta unica, in poche parole. Sì, già, se c'è di fare, io sto facendo un altro pezzo, ma devo prima vendere qua. Non ci sono più soldi, mi avevo venduto. Sì, ho capito. Aspetta due secondi, che mi sistemo bene qua. Ehi, qua, dai, ci sentiamo domani, che io mi zingocco un poco, ok? Buonanotte a tutti, buonanotte anche gli ascoltoni, ciao. Ciao, Anto, ciao, domani, ciao. Ciao.